Mr. Kilowatt, alla ricerca dell'energia perduta. Buonasera da Maurizio Melis. Nonostante l'acqua in Italia sia mediamente di ottima qualità, gli italiani sono grandissimi consumatori di acqua in bottiglia, forse addirittura i più grandi consumatori al mondo di acqua in bottiglia. Allora partiamo da una domanda questa sera: quanto petrolio ci vuole per portare sul tavolo di casa nostra una bottiglia di minerale? Lo chiediamo subito al nostro ospite Giorgio Temporelli, consulente tecnico, esperto di acque e potabilizzazione. Buonasera Temporelli. Buonasera a tutti. Allora, diamo subito questo numero. Quanto petrolio ci scoliamo metaforicamente ogni volta che beviamo un litro di minerale? Allora, per produrre una bottiglia, diciamo da litro e mezzo, contenente acqua minerale, sono necessari circa mezzo litro di acqua e 50 grammi di petrolio. Ora, siccome siamo tra i più grandi consumatori al mondo di acqua minerale, in particolare ne consumiamo 12 miliardi e 400 milioni di litri all'anno, questi numeri si ingrandiscono enormemente, saltano fuori circa 6 miliardi e 200 milioni di litri di acqua e 500 mila tonnellate di petrolio per produrre la plastica necessaria a contenere tutti questi litri di acqua. Ecco, quindi questo è i numeri dell'impatto ambientale del PET. Ecco, oltre a questo dato bisogna ricordare che circa l'80% dell'acqua minerale viaggia in tir e un tir emette 1300 kg di CO2 ogni 1000 km percorsi. E tra l'altro questo si riflette immediatamente anche in un impatto in termini economici, no? Perché la differenza di costo fra l'acqua in bottiglia e quella dell'acquedotto infatti è mostruosa. Eh beh sì, mediamente 500 volte. 500 volte più costosa l'acqua in bottiglia. Mediamente sì. Eppure è buona quella dell'acquedotto, vero? Eh beh, sì, è molto buona e controllata. Non che quella minerale non sia buona, però certo, quella dell'acquedotto è altrettanto buona, è sicura, per legge viene controllata. I contaminanti, quando ci sono dentro a dei livelli, diciamo, a delle soglie che sono ben stabilite. Comunque l'acqua è sempre potabile in qualsiasi rubinetto d'Italia. Ecco, sta di fatto però che a volte il naso, le papille gustative non sono del tutto d'accordo. Però appunto è una questione di gusto, non di salute. Allora, quali sono i sistemi che abbiamo a disposizione per migliorare il gusto dell'acqua e così insomma farci passare magari la voglia di comprare sempre l'acqua in bottiglia? A volte magari quella gasata sì, perché non c'è alternativa, però quella... No, naturale, liscia, tutto sommato. Sì. Ma diciamo, metodi ce ne sono tantissimi, anzi ce ne sono così tanti che a volte il consumatore è un po' confuso e disorientato, anche per le diverse notizie a cui viene sottoposto. Si parte dal più semplice, che è la comunissima oggi caraffa filtrante, anche economicissima, perché costa una ventina di euro, e utilizza il principio attivo del carbone. Questo carbone ha la proprietà di togliere cattivi gusti, di eliminare cloro e cloro composti, cloro derivati ed eventuali gusti, retrogusti presenti nell'acqua. E come sai, su queste brocche però si è detto che non sono tanto affidabili, ma è vero che hanno dei problemi o no? Come ogni impianto di trattamento dell'acqua, devono essere manutenzionate con regolarità. E manutenzionate nel caso di una brocca vuol dire semplicemente con tempi regolari cambiare la cartuccia, che è mediamente una volta al mese, banalmente è questo. Poi, tenuta normalmente, l'acqua dalla brocca è assolutamente sicura, non ci sono problemi. L'acqua che esce dalla cartuccia filtrata dalla brocca non diventa non potabile, come è stato detto qualcuno. Evidentemente l'utilizzo massiccio di queste brocche ha fatto calare sensibilmente l'utilizzo di acqua minerale, quindi questo può far capire anche la come mai c'è stata questa rivolta contro le brocche. Ecco, quindi ci sono i carboni attivi che vengono utilizzati nelle brocche, ma anche in vari sistemi che possono essere a muro più o meno grandi, no? per filtrare l'acqua. Oltre, diciamo, la brocca è quello più economico, ma poi ci sono anche altre alternative. Oltre ai carboni, quali altri dispositivi? Quali altre tecnologie esistono per trattare l'acqua a livello domestico? Un'altra tecnologia che è molto utilizzata è quella dell'osmosi inversa. L'osmosi inversa ha un trattamento molto più invasivo, più invasivo nel senso che non lascia inalterato il contenuto salino, ma toglie tutto quello che c'è nell'acqua, quindi non solo il gusto, quindi non ha solo un intervento dal punto di vista organolettico, ma ha un intervento proprio sulle caratteristiche chimico-fisiche dell'acqua. Viene quasi fuori acqua distillata, no? Esatto, però questi impiantini hanno una valvolina dietro di regolazione di bypass, per cui regolando questa valvolina si può miscelare l'acqua e ottenere un'acqua così un po' più equilibrata, quindi non esce proprio acqua distillata, ma esce un'acqua leggermente mineralizzata. Se uno ha il piacere di bere, o perché gli è stato indicato dal medico, o per altri motivi, acqua leggera, come peraltro molto leggere sono alcune marche di acqua minerale, allora in quel caso si va a comprare un impianto d'osmosi. Altrimenti l'acqua del rubinetto ha una composizione salina equilibrata che non richiede di essere brutalmente diciamo alterata. C'è poi una terza alternativa, che è quella dell'addolcitore, che però non è che serva a rendere tanto migliore il gusto dell'acqua, vero? A che funzione ha in questo caso? Addolcire vuol dire ridurre la durezza, cioè il carbonato di calcio. Il carbonato di calcio è responsabile delle incrostazioni calcaree che occludono i tubi, occludono i forellini della doccia, sporcano le pentole, eccetera. E ovviamente laddove in alcune città l'acqua è molto calcarea, diciamo, o abbastanza calcarea, può essere utile, può essere necessario installare un addolcitore che generalmente viene messo nella tubazione d'ingresso dell'appartamento, così l'acqua di tutta la casa è addolcita e diciamo quindi più che altro il problema tecnologico viene risolto e non tanto quello salutare. L'adozione di questi sistemi rispetto all'acquisto di acqua in bottiglia è comunque sempre economicamente conveniente? Sicuramente sì. Grazie Giorgio Temporelli. Grazie a voi, arrivederci. È tutto, a domani.